Signore e signori, buonasera. Un'altra Radio Roma presenta. Guarda che palcoscenico naturale. Qui potete fare quello che vi pare. Quello che vi pare. Costruire degli eventi per dei gruppi sotto licenza Creative Commons e a seguire DJ set. Ma che non li fa risuonare? Altra radio, io. Roma. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Ma ammazza che casa, Roma, casa. Un'altra radio Roma. Vedo io 20 serate. Ma chi? Fabio Bonno. Azza. Chi? Ma che casa. Prima, perché sono un signore e signore si nasce e io lo nacqui modestamente, caro signore. Roma. Is that funk? Annie, don't wear no panties. Annie, don't wear no panties. Oh, come on, say Annie, don't wear no panties. Is it cause I'm a Santa Claus, then I break a leather sack and drown? Yeah, Annie, don't wear no panties. Annie, don't wear no panties. Oh, say Annie, don't wear no panties. When the bathroom stove was there, when she took them off. Yeah, Annie, I don't wear no panties. Bathroom food that was wild, we see only ghosts. Yeah, Annie, I don't wear no panties. Annie, I don't wear no panties. Annie, I don't wear no panties. Here's a film if you can't afford it. I think it's to the videotape recorded. Oh. Don't wear no panties. Yeah, come on, say it. Don't wear no panties. Yeah. On the front pew, giving the conjunction that my good view. Oh, Annie, don't wear no panties. Hey, I don't wear no panties. Yeah, Annie, don't wear no panties. Yeah. Have no dress, but with your work and the outside. Annie, don't wear no panties. Annie, don't wear no panties. Yeah, come on, say Annie, don't wear no panties. She was in the bedroom still, having in a thousand drink. Yeah. Not Natra Radio Roma. Natra Radio Roma. We'll be right back. Natra Radio Roma. open your mind. Open your mind. Open your mind. Na radio Roma. We'll be right back.

Radio Roma, un'altra novità, ta ta ta ta ta ta. Un'altra Radio Roma, un'altra novità, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Mi piace questo progetto Denartra Radio de Roma, si dice così. Sì. Thank you. Serpente alle foglie, alle c'è Nartra, Nartra, Nartra, Nartra. Radio Roma, Radio Roma. Nastra Radio Roma, dove la musica è la padrona. facciamo? Podcastesimo. Fingerai. originale, originale. Narra Radio Roma, Radio Roma, originale, originale, originale. Narra Radio Roma, Radio Roma. Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma. Solo su Narra Radio Roma, musica originale. Thank you. Though you throw you, my love is full. Move your body in the groove. I want your body, I want it more. Move your body in the groove. Though you throw you, my love is full. Move your body in the groove. I want your body, I want it more. Move your body in the dance floor. Though you throw you, my love is full. Move your body in the groove. I want your body, I want it more. Move your body in the dance floor. Digital dreams crossing over the sea. Oblivion, my height's Olivian. I'm from the Caribbean, Barbados, all fatal styles that I construct and conduct in a manner like banner, sky scanner, eye jammer. 40 miles above Highlander with my grandma. I've been in the bush and tried to cap Santa, rap vandalizer, verbal brutalizer. Who's the wiser, me and he who moves to grow flesh and test tubes? I have mastered such degrees and less moves. My discipline and vision and Ritalin, FDA approved, we lose. Medication facing brute forces, they battling Italian losses. See how causes all the causes. Helicopters now replaced by flying saucers. Over the ghettos where the brothers is taught to bust shots, to get a lot of what is had by the haves, not the have-nots. Raps drop on your brainstem. This is Liv, aka Codename Mayhem. What made you think that that I wouldn't come back with a bloody accent, some bloody facts over tracks. Up in the ghetto and talk to bus shots, a bird in a bus in a fine line to walk, yeah. Up in the ghetto and talk to bus shots, a bird in a bush in a fine line to walk, yeah. Up in the ghetto and talk to bus shots, a bird in a bush in a fine line to walk, yeah. Up in the ghetto and talk to bus shots, a bird in a bush in a fine line to walk. Fact one, America don't give enough about you, so get off it. I'm not a prophet, they just want the profit. They make you want it, so you crop it, so you can't stop it. You're addicted, below unknowing, so you get evicted. Fact two, Dolphins in a state of emergency. It's genocide, correct, classified. If this was Kosovo, it'd be over, bro. But it's brothers, so it equals no coverage, most suffrage. People drawn and quartered, castrated, slaughtered, burned, disgraced, gang rape, displaced. For the rest of the world, just turns face to chase some economic goals. Bury the lost souls, living up without the burden, hell of God knows. Up in the ghetto, taught to bust shots, a bird in the bush and a fine line to walk, yeah. Up in the ghetto, we're taught to bust shots, a bird in the bush and a fine line to walk, yeah. Up in the ghetto, we're taught to bust shots, a bird in the bush and a fine line to walk, yeah. Up in the ghetto, we're taught to bust shots, a bird in the bush and a fine line to walk. Nostra Radio Roma, rimanete con noi, con noi, con noi. I'm not afraid to die. Originale, originale, originale. Un'altra Radio Roma, Radio Roma. Originale, originale, originale. Un'altra Radio Roma, Radio Roma. Originale, originale, originale. Un'altra Radio Roma, Radio Roma. Radio Roma. Solo su un'altra Radio Roma, musica originale. Originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, Radio Roma, Radio Roma. Solo su un'altra Radio Roma, musica originale. originale, originale, originale. Un'altra Radio Roma, tra Radio Roma, originale, originale, originale. Un'altra Radio Roma, tra Radio Roma. Solo su un'altra Radio Roma, musica originale. D'une grande quantité d'instants isolés pour être perdus au sein d'une multitude de choses. Perdus au sein d'une multitude de choses. J'ai travaillé tout le temps à rien faire. Désirons que l'amour dure, et nous savons qu'il ne dure pas. Il ne dure pas. Il ne dure pas. Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la vie. L'aspect banal de la vie. On appelle l'acte d'amour, amour, amour, amour, amour, amour, amour, amour. La magie de l'électrochoc plonge, commotionné dans ce râle dans lequel on quitte la vie. C'est un roi mage et suivre la comète, comète, comète, comète, comète. Et en suivant la comète, il comète. Fait expérience de la réalité. Comète, la réalité, comète, la réalité, comète, la réalité, comète, la réalité, comète, la réalité. Amour. Jets for us. Music as Bambera. Hey baby, it's cool. There's no reason to be scared anymore. outside to play. Circumstance beyond control. I feel so helpless. My mind is racing and breaking me into a million pieces because I can't take you home across the river and to your door. Take you home and cut through the darkness. You don't have to cry anymore. Take you home and hold you in. Hold you in. Hold you in. Door, take you home, but I'm so scared that home isn't here anymore. Take you home, hold you in through the night shade and under the stars. Hold you in. Signore e signori, buonasera. Un'altra Radio Roma presenta. Thank you. you, jazz for us. Music as Bambera. Thank you. Io ho paura, sono malato, paura, sono malato, paura, sono malato. Yo, yo, yo, io sono qua. L'unica radio che manda musica a Spansvera. Yo, yo. Radio of the Radio. Un'altra radio Roma. Un'altra radio Roma. The radio of the ministers. Ghiacciolo dentro il freezer, ti mandano messaggi che son caldi come il Niger. Ma quando poi le incontri so più un sante della Mites, ti dicono non posso, c'ho le ali della Lines. Si spogliano sensuali per sembrare certe dive, si scopano l'amante per sentirsi più giulive. Se fanno le gelose vanno sulle difensive, ma poi vanno in vacanza con le amiche alle Maldive. E sono trasgressive come piccole lolite, ma con la differenza che son copie ma sbiadite. E cercano le fusa ma non hanno sette vite, per essere riempite di carnassa come pite. Ercole ne ha fatte molto meno di fatiche, ed io che sto sudando per avere un due di pic. Mettiamo la mia lingua ora tra le tue natiche. Hai detto che ti piace alle tue pervertite amiche. Io non l'ho mai capite, queste tipe emancipate che vogliono possedere senza essere possedute, che vogliono certezze che non dicono ti amo. Così c'hanno la scusa per tradire il loro uomo. Io non l'ho mai capito, questi tipi innamorati diventano giocattoli, usati e poi buttati. Non scopano le altre, fanno solo i ditalini. Così non han tradito perché il cazzo non è un dito. E intanto tu mi dici siamo solo buoni amici, mi bruciano i coglioni come olive in friggitrici. E dopo ribadisci niente sesso, mi capisci, mostrandomi le tette mentre ce ne andiamo in bici. Finisce che il tuo amante ti tradisce con un altro, che ti venga un infarto mentre sgravi in sala parto. Finisce che rimani con un vibratore in mano, è inutile che chiami, io non sono più tuo uomo. Mi caghi solamente per richiedere il mio aiuto, ma questo non è amore, siamo fuori di un imbuto. E tu sei il buco largo perché almeno il tuo è parato. Io per non sembrar cornuto mi travesto da canuto. Non sono un maschilista, io di solito perdono, ma dopo due inculate scusa ma mi paro il culo. Ritornerò lo stronzo che non hai mai conosciuto. Non chiedermi il saluto, sono in ferie, anzi ho chiuso. Io non l'ho mai capite, queste tipe emancipate che vogliono possedere senza essere posseduti, che vogliono certezze che non dicono ti amo. Così c'hanno la scusa per tradire il loro uomo. Io non l'ho mai capito, questi tipi innamorati diventano giocattoli, usati e poi buttati. Non scopano le altre, fanno solo i ditalini. Così non han tradito perché il cazzo non è un dito. Io non l'ho mai capito, queste tipe emancipate che vogliono possedere senza essere posseduti, che vogliono certezze che non dicono ti amo. Così c'hanno la scusa per tradire il loro uomo. Io non l'ho mai capito, questi tipi innamorati diventano giocattoli, usati e poi buttati. Non scopano le altre, fanno solo i ditalini. Così non han tradito perché il cazzo non è un dito. Io ho paura, sono malato, paura, sono malato. Yo, yo, yo, yo, io sono qua. L'unica radio che manda musica a Spansvera. Yo, yo, the radio of the ministers. Un'altra radio Roma. Un'altra radio Roma. The radio of the ministers. Hey, yes, yes, yo. Yes, yes, yo. G-A-W-L-U. Yes, yes, yo. Il primo freddo comincia a farsi sentire. Il presidente è indagato per le veline. Ed io vorrei fuggire lontano da qui. Vivere, insomma, vivere un po' così. E non pretendo troppo, non voglio fuggire col malloppo. Evito di andare con lo zoppo per non imparare a zoppicare. Ho anche provato a non fumare, un ennesimo vizio che vorrei togliermi. Quanti sassolini dalla scarpa che vorrei togliermi. Come vorrei girare il mondo e come un astro riavvolgermi per rivedermi nei momenti salienti. Alla faccia dei vegetariani, finché avrò denti, morderò carne ben cotta, dando soddisfazione alla mia bocca, dando soddisfazione alla catena alimentare. Nel mare inquinato sono pronto a nuotare con un passamontagna a forma di elmetto, e comincio a girovagare, ma la prossima estate la passo in montagna con Maometto. Palleggio con la palla magica che batte forte nella cassa toracica. La vita a volte è nera come l'Africa, e se tu non ce la fai almeno immagina. Palleggio con la palla magica che batte forte nella cassa toracica. La vita a volte è nera come l'Africa, e se tu non ce la fai almeno immagina. Almeno immagina. La palla magica che batte forte nella cassa toracica. La vita a volte è nera come l'Africa, e se tu non ce la fai almeno immagina. Non scambierei mai la serenità con la notorietà. Il sogno di una certa età passa, anche se dimentico in fretta che c'è bisogno di maturità. Per me la stabilità è necessaria come per un bambino la madre. Dico addio alle facce fatte, che fate d'estate? Andiamo nel bosco a prendere un fungo, magari poi vi raggiungo, ma mi preservo perché sto viaggio è ancora lungo. E finché non giungo alla meta non voglio lasciare le cose a metà. In effetti non ho più l'età come Gigliola Cinquetti, ma non c'è nel gabinetto, un sogno nel cassetto. Impazzirò dietro ad ogni mio progetto. Schiatto se non sono schietto come una skit. Metto l'anima nella strofa con rit e pompo la shit sul beat, sorridendo alla disgrazia. Ho musica universale per ogni razza, ho caffè bollente per ogni tazza. Ho rime come baci per la mia ragazza che mi inquadra, ladra come la gazza. Il mio cuore rimbalza, la pressione si alza. Palleggio con la palla magica che batte forte nella cassa toracica. La vita a volte è nera come l'Africa, e se tu non ce la fai almeno immagina. Palleggio con la palla magica che batte forte nella cassa toracica. La vita a volte è nera come l'Africa, e se tu non ce la fai almeno immagina. Almeno immagina, almeno immagina. Comunque adesso lancio un bel pezzo a caso. A caso. Narra Radio Roma, rimanete con noi, con noi, con noi. ST3, detrimental. Mr. Blitz is the wickedest, tranquilizing the niggas that thinkin' they lyrical nicks is the illness, and in fact, detrimental. Coming through with the fat gaps, the cats, and that's that. Let's get into the mix. A sucker for love, I guess I can admit that. Cause it's the river I'm at in the rap. Don't ever take it for joke, though. You taking it for a joke, yo. Could be the pain of the lady normally roll. Especially when it comes to wifey, don't ever excite me. You could get the bees and fleas. Showing the tail, shit, you can never prevail. Could use the BITCHBIIL. Pardon if I came more hardcore on a sweet track, but I gotta let them know in the back that it's the bitch tonight. If you ever think of getting moan, a load of bone on you, I'ma put at your cat. If you start talking, I'll do what you say. If you can handle me, cause most hate. If you can live up to your words, boy, I'll show you everything in a lot more. Cause ooh, pick it up then. Drop it like it's hot, here for the ride, do whatever you want. I want you to pick it up then. Drop it like it's hot, here for the ride, do whatever you want. I want you to pick it up then. Drop it like it's hot, here for the ride, do whatever you want. I want you to pick it up then. Drop it like it's hot. You know you make me feel like loving you, kissing you, grinding my body on you, making love to you, and then being with you till the morning comes. Then I gotta go, I'm not the only one who shows your bed on the daily. It was a one-time thing, let me go, please. If last night was special to you, I don't know what to tell you other than you got me in the mood, and I was feeling your attitude. And no, I don't want you to be my dude, so let's meet up at the club again, and we can grind and start whining, and then do it all over again. Cause I want you to pick it up then, drop it like it's hot, here for the ride, do whatever you want. I want you to pick it up then, drop it like it's hot, here for the ride, do whatever you want. I want you to pick it up then, drop it like it's hot, here for the ride, do whatever you want. I want you to pick it up then, drop it like it's hot. Guess I can break it down now. How I adore you. You're the best, bitch, it's about due. It's about time I take time. Tired of waiting on the line and ain't moving. It's time for improving mine. I need a lady that's sophisticated to fit the XXX rated operated dick. And if you a gangster, bitch, let me see you grab the flick and rub it like an itch. You best believe I'ma examine the coach, choke shot, just in case the HIV, D, these bitches are quick to come equipped with diseases to deceive me. To blitz on the push on the bitch with the oxy touch. Man, I want the butch, then I dutch. Listen, I don't mean to be cruel. All I want is the good booty to finesse the move. Is it simple? Showing you what I'm into. Show you no other girl would ever do. Everything I do for you, 'cause you get me in the mood. Ooh, you really get me in the mood. Pick it up then, drop it like it's hot. Wanna be your baddest, baddest. Pick it up then, drop it like it's hot. But I don't want you to be my baby. Drop it like it's hot. You know you make me feel like. Pick it up then, drop it like it's hot. You know you really. Comunque adesso lancio un bel pezzo a caso. A caso. Un'altra Radio Roma. Rimanete con noi, con noi, con noi. With you. We'll be right back.

children. Chant down Babylon for the die people. Chant down Babylon for the cry children. Fire Babylon, oh. I and I feel it. Rastafari is the sun. I and I feel it. Jah is the lion conqueror. I and I feel it. Rastafari is the sun. I and I feel it. Jah is the lion conqueror. Renati Red. Alone, alone, alone, alone, alone. Can Renati Red. Easy, long, long, long, long to me. Say they bring in to we, yeah, yeah, to we. You destruction. I tell ya interruption. Why don't they let us be? But Jackals fight them with the flames and the fire. Burn them down, His Majesty. All over this world of destruction. I tell you that they come and bring them bad interruption. Why don't they let us be? Change your life, can't you see? Hey, change your life for me. You got to change your life for me. Change your life for me. Change your life, you better change your life. Change your life for me. Change your life for me. Change your life for me. Change your life. Change your life. All over this world, you know, say that them coming with them trouble. Down in the ghetto, yes, I see the youths them balling. And all the mamas just a struggle. Cause as I see in this destruction. And they coming with their bad interruption. Why don't they let us be? You better change your life, can't you see? Change your life for we. Change your life for we. You got to change your life for we. Change your life. Change your life. Change your life for we. Change your life for we. You got to change your life for we. Hey, change your life. You better change your life. Interruption. Bad interruption. Yeah now, yeah now. You destruction. Interruption. Hey, so they bring it to we. Oh,